Un saluto da Max Macchia per un altro 451 frammenti sonori, ben ritrovati dopo un po' di tempo che non ci sentivamo, magari poi avete utilizzato altre strade per ascoltare 451, va bene, va benissimo, soprattutto la strada di 451 frammenti sonori.noblogs.org. 2020, 451, i frammenti sonori, le decadi, due decadi che così in maniera quasi dolorosa ma quasi inconsapevole passano e portano con sé ovviamente tanti discorsi, soprattutto tra le fila di qualcosa che sembrerebbe invece fermo, sembrerebbe assolutamente sotto la coltre di un allungamento postmoderno e quindi di una sorta di fine della storia che tant'è non è stato tra l'altro proprio nel 2001, quindi un periodo appena iniziato del nuovo secolo, non parliamo di millennio, insomma, perché come dire, nel millenarismo ancora non ci andiamo, seppure insomma nel 1999 ha dato anche quella c'è stato anche quella carica, diciamo, poi immediatamente scaricata, ecco, ovviamente non poteva essere che così. Nel 2001 di fatto cade quel discorso legato appunto alla fine della storia, Fukuyama, e quindi quello che poi per molti versi è stato anche la definizione anche più compiuta del postmoderno, come inteso appunto ben possibilità temporale legata al gioco, quindi alle possibilità date da prendere periodi di differenti, sovrapporli o comunque trovare situazioni appunto che vadano più sul, andavano più sul ludico, e quindi anche con tutto il portato ideologico che c'era, forse infatti il gioco era piuttosto strumentale, potremmo dire anche piuttosto insomma conformistico dentro poi un capitalismo che si stava sviluppando appunto in quella maniera, proprio per anche la sconfitta storica del blocco socialista o sedicente tale, e quindi quello che così adesso accenno rispetto a quel passaggio appunto tra fine 90 e primi anni 0 è un po' il momento su cui perlomeno inizieremo questa riflessione 2020 di 451 frammenti sonori fino ad arrivare appunto ai nostri giorni. Non vi preoccupate, è anche impossibile far ascoltare soltanto una piccolissima parte di quello che è uscito. Anche questo è un discorso piuttosto insomma se vogliamo anche complicato da affrontare, quello che sembra che non ci sia stata musica per tanti versi, tante retromanie. Addirittura Samuel Reynolds ha parlato per gli anni zero di un decennio perso, di una possibilità appunto mandata all'aria da retromanie e da un'ossessione per queste. Negli anni 10 hanno iniziato con probabilmente un altro taglio, ma ancora era molto forte quello che appunto si era trasformato in cronicizzato come retromaniaco, per poi accorgersi perlomeno insomma per quanto riguarda buone anche buone scritture potremmo dire non soltanto quelli di Simon Reynolds ma anche tra l'altro anche qua in Italia se pensiamo a Valerio Mattioli Giro Prismo sono riusciti poi a forzare se vogliamo quello che comunque era già ovviamente espresso, ovvero quel futuro, quell'idea appunto di prospetto, di prospettiva che c'erano molte musiche che appunto nascevano negli anni 10. Ma per iniziare appunto riportandoci quindi a cavallo tra la fine degli anni 90 l'inizio appunto del nuovo secolo, uno dei suoni sicuramente più importanti dei 90, che ha un trade union tra l'altro che ci porta ancora più indietro, un filo rosso che parte dagli anni 80, la musica techno, una delle cose che comunque poi anche ha portato a una sorta di serializzazione di quel suono anche molto, molto standardizzato poi nel suo poi farsi sempre più dance minimale, quasi riduzionista potremmo dire, sto parlando insomma di quel suono techno minimal che all'inizio insomma è piuttosto sperimentale se pensiamo a Kit Clayton ad esempio con missioni dubbistiche pensiamo a Raster Norton quindi a Maurizio o a certa anche Detroit che minimalizzava il suono techno appunto creato proprio nella città e succede appunto che alla fine degli anni 90, nei primissimi anni zero, ci tocca assorbire quello che sarà appunto uno dei suoni più serializzati, più standard, che tuttora si sente andando a Berlino, insomma, ma potete entrare da qualsiasi parte e la minimal vi colpirà o non colpirà perché poi fondamentalmente è un'associazione tra muzak quindi musica da sottofondo così tanto per essere buoni e dance floor quindi anche una sorta di riduzionismo che va poi verso anche forme così abbastanza paradossali se vogliamo come punta e questo sorta di interstizio potremmo definire tra appunto la fine 90 quella minimal techno decisamente sperimentale e quello che poi appunto sarà anche lì ridotto il termine come minimal e basta un interstizio molto interessante quello di Isolé soprattutto del primissimo periodo e appunto andiamo a sentirlo proprio uscito tra l'altro nell'anno zero che per certi versi porta a compimento appunto quel suono tecno minimale sperimentale e per altri versi apre la strada ad altri modi di intendere appunto la matrice tecno come appunto poi maledettamente si potrebbe dire porterà invece anche a la stragrande maggioranza insomma della minimal ma andiamo appunto a sentirlo per capire dove invece andava a sperimentare appunto Isolé con il suo Rest. figured out by now. Yo. Yo. If first you don't succeed, try again. Step up to the mic and die again. This is the next lifetime and you wanna battle. Either you like the incarnation or the smell of carnations. The samples, the flesh, and the beats, the skeleton. You got beef, but there's worms in your Wellington. I'll put a hole in your skull and extract the skeleton. Oh my God, said a word twice. Fast air, I'm twice as nice. Get caught up and my blade might be diced. Flesh, dangerous here. Yo, Scano, yo. If first you don't succeed, try again. Step up to the mic and die again. This is the next lifetime and you wanna battle. Either you like reincarnation or the smell of carnations. The samples, the flesh, and the beats, the skeleton. You got beef, but there's worms in your Wellington. I'll put a hole in your skull and extract the gelatin. Mustard seed, faith, move mountains. This is the jailhouse rap. Rock hard, my face is in a cell block. You'll catch a Kennedy curse from the speed nine. Son, I'm mad cause I think different. Plus your girl's sex technology, I wanna plug in. Now every egg my goose lays, stay golden with your poker face. I punch you in the stomach and you fold it. Fold it, fold it, fold it, fold it. Fold it. Fold it. Yo, you see what happens? You fuck with the wrong people. You might get dragged into a kitchen. Cut up. Real right here. Death jokes right here. Spit with lyrics that spill off the grill nasty. Off the top, live five fancy. Fly mic strand with nonsense. Blowing earth's color through a nonsense. A posse that write novels with thoughts mega hostile. Ready to pop you. Venomous snakes out the Congo. But through these clear optics, your alarm shall watch you. Wrapped in the coldest winters. Strapped with all sorts of snorkels. Attached to hoods that pull over Motorola goggles. We pigeons equipped with talons to twist split owls. Now watch me. Skate off the scene with a mongoose. Papa Willie and Ollie, you deuce bottles of frozen vine juice. Smoke bubble gum while munching on Milanos. We crazy, off the head, lazy. Blaze them seas, amazed with degrees on a higher level. Inspire devil to lead, God cipher alone. Bomb pipes on bones, architect when I write these poems. Write these poems, write these poems. fantastici, Cannibal Ox, l'hip hop, sì, abbiamo fatto una sorta di così di chiusura che magari per molti versi è stata tutt'altro, anche se con Rest di Isolé sì, si chiude sicuramente una la capacità di sperimentare, o meglio, la capacità forse no, comunque si chiude probabilmente la capacità storica, ecco, storicizzata appunto a 20 anni di distanza, di riuscire a sperimentare su un suono minimale e tecnoide. E appunto la serialità poi sarà da lì a divenire con Isolé, con lo stesso suo lavoro tra l'altro, e con le miriadi insomma di minimal che insomma, hanno, e ancora per molti versi imperversano, ma appunto prima citavo Berlino, per altri versi invece è aperto ma più per un carattere probabilmente legato appunto a questo riuscire a sperimentare su forme elettropop che ci rimandano agli anni 80, quindi anche con quello che poi sarà appunto negli anni zero proprio una vera e propria fissazione, ossessione, retromaniaca, e poi queste questo quasi riuscire a rendere possibile dentro appunto riduzionismi tecnoidi, quasi sonorità africaneggianti, e quasi dei funky così liofilizzati, potremmo dire, dentro appunto una caratura, ecco, legata al dance floor. È tutto molto molto diciamo millimetrico, ma non per forse capacità scientifica, potremmo dire, non è un suono scientifico come potrebbe essere ad esempio, ovviamente fatemi passare insomma la forzatura, quello di Autechre, cioè un suono fortemente legato al calcolo digitale, anche più o meno fatto direttamente, ecco, comunque di fatto quello è stato soprattutto per altri tra l'altro fari degli anni zero e soprattutto degli anni 10, perché poi anche questa la faccenda insomma di Autechre, tanto per trovare universi insomma paralleli tecnoidi che hanno continuato. Per quanto riguarda appunto Isolé invece la faccenda è veramente molto più legata a una scienza potremmo dire debole, e quindi a un volere poi intendere anche la materia sonora, i generi come commistione probabilmente con anche un'idea piuttosto postmoderna appunto di sviluppo di quello che poteva essere appunto un suono che nasce invece in maniera molto più antagonistica, se vogliamo, perlomeno escapistica, perché insomma su quello penso che nessuno possa dire che la prima techno, quella della metà degli anni 80, non abbia un forte senso escapistico, fantascientifico, appunto Detroit e i vari insomma Atkins, Saunderson eccetera, grandi maestri insomma di quel suono, come d'altronde poi proprio negli anni 80 esplodeva quel fenomeno, quel suono. Prima accennavo al fatto che ovviamente non si può ascoltare per non parlare del tutto, non si può ascoltare tanto di appunto degli anni 0 e degli anni 10, ma sicuramente si può campionare in un certo qual modo, quindi prendendo anche le mosse dalle campionature degli anni 90, il periodo forse dove appunto si è campionato di più, beh, prendendo dei campioni legati a proprio un suono, suono barra genere, potremmo dire, beh, quello di Cannibal Ox è una capacità sviluppata anche in maniera assolutamente originale, che darà poi parallelamente e anche dopo grossa filiazione per quanto riguarda un modo di intendere la matrice anche qua, hip hop, veramente come qualcosa di molto più simile a una distopia elettrificata o portata verso l'elettronica digitale, quindi fratture quasi, pezzo che abbiamo ascoltato da Cold Vein, sembra quasi veramente quasi su una battuta outrichiana, potremmo dire, di quegli anni, il disco del 2001, con appunto un immaginario sonoro decisamente distopico, anche in questo senso, insomma, anticiperanno un bel po' di cose, soprattutto poi, tra l'altro, cose che tornano utili nei nostri giorni, se pensiamo a forme di accelerazionismo che prende molto da Antipop Consortium, Cannibal Ox, in forme, insomma, appunto accelerate di quello che è stato comunque un passaggio decisamente epocale, non soltanto per l'hip hop, ma per l'elettronica, appunto, che si sono sviluppate partendo anche dai generi, come abbiamo appunto sentito prima con Isolé e con Cannibal Ox. Beh, Black Tomb for Black Dom, questo duo, anticipa per molti versi quello che sarà la politica gender legata al suono, un suono sperimentato sul gender, e una sorta di decostruzione. Ecco, qua sì, veramente il gioco diventa anche piuttosto interessante, senza appunto cadere, prima accennavo, insomma, utilizzavo il termine conformista legato alla postmodernità, poi di fatto, insomma, molte delle cose hanno caratterizzato in questa maniera, insomma, non che un movimento, ma un'attitudine, potremmo definirla così. Se prendono le mosse Black Tomb from Black Dom, queste giovani fanciulle, appunto giovani comunque nei primi anni zero, appunto la decostruzione postmoderno, poi lo fanno per approdare verso una rielaborazione delle musiche elettroniche, fondendole con strane commistioni che portano verso altrove musicali, come appunto lo stesso hip hop, forme tecnoidi, deragliamenti sonori legati anche a una forte conoscenza del breakbeat, e poi un suono legato a, potremmo dire, una sorta di glitch freak, cioè un errore, con un forte senso del freak, del mostruoso, che viene appunto anche lì a fondersi con la particolarissima, insomma, idea di musica gender che hanno appunto Black Tomb for Black Dom, che andiamo appunto a sentire da uno degli album storici appunto degli anni zero, House Des Naus, appunto Black Tomb for Black Dom. A process accomplished through perseverance. Every man's not my brother, regardless of appearance. Apprehension clouds, tension. Brechtum fra Black Dom, poi qualche secondo di Bevin Brechtum, il duo si sciolse quasi immediatamente, potremmo dire, però lasciando insomma due lavori veramente notevolissimi, oltre che vabbè, qualche singolo e appunto questa splendida compilation, non compilation, che è House The Snows, in realtà insomma è un disco insomma pensato anche qua con una chiave piuttosto postmoderna, ma con quella pericolosità, ecco, che non c'era, ecco, sicuramente in molte ancora delle musiche postmoderne, anche appunto di quegli anni, e quella pericolosità data appunto anche da sperimentare con materie piuttosto esplosive, tra i pop, glicerie, noise, che però appunto prende quasi delle forme così danzabili, una sorta di fricheria generalizzata, quello di The Brechtum from Black Dom, e poi quello che sarà la continuazione di Breivik Brechtum, anche appunto in nomi lasciano insomma già presagire un suono che ovviamente sarà così fuorviante per senso appunto di vaghezza voluta, di perdita, anche di smarrimento appunto rispetto a canoni sonori e a generi, e cambiando anche attitudine, ma avendo appunto come riferimento quasi questa possibilità data dall'errore, in questo senso sono sempre state molto glitch le Black Tomb for Black Dom, però unendole appunto a quella fricheria che le rendeva veramente eccezionali, e che hanno aperto insomma veramente a tanti suoni che del freak sonoro, del bric-a-brac, potremmo dire, hanno fatto una vera e propria filosofia musicale, come quella di Avatar, Panda Bear, Geologist, devo dire chi sono, sì, e sono Animal Collective, prima che diventassero Animal Collective, fece uscire appunto un disco da Dance Mama Manate, che appunto vive di fricherie, di rimandi, però sono rimandi che non hanno tanto di nostalgico quanto di futuribile, appunto dato da una sorta di appunto impasto sonoro, di sorta di pozione magica, se vogliamo, in questo senso anche veramente neo psichedelici, con tutti gli attraversamenti folk elettronici e weird, poi in generale, anche perché se ci pensiamo insomma con i primi Animal Collective si ha proprio pienamente quell'immaginario, poi che diventerà anche importante, ad esempio anche per la stessa Italia e per i suoni insomma d'underground di questa, e che per molti aspetti appunto saranno fondamentali per gli anni zero, proprio come potremmo dire appunto ex post, quindi come immagine che ci lasciano, con tutti poi outside artist, quindi anche tutta l'arte, molta parte dell'arte grafica che si fonda appunto sul weird, o quando non si fonda, sprofonda, potremmo dire, nel weird più così, anche in questo caso potremmo dire così ipeggiante, freak buono, insomma con poca malvagità. Per quanto riguarda invece altre situazioni freak, Weird, che hanno attraversato gli anni zero, che magari appunto metteremo magari anche immediatamente dopo a Veitar, Panda Beer e Geologist, magari c'era anche, come dire, un aspetto negativo o comunque un aspetto, diciamo, piuttosto scuro. Per quanto riguarda loro invece, veramente un gioco che riesce a essere sempre benevole, pur essendo, insomma, un suono che all'inizio degli anni zero fu anche piuttosto sperimentale. Thank you. Concludiamo questa prima ora intanto con un suono che immagino molti di voi abbiano riconosciuto, parte così Geo Gaddi di Borzo Canada. Perché lo metto per qualche secondo? Perché fondamentalmente Dolphin Into the Future portano appunto quell'idea di fricheria verso mondi oscuri, perlomeno ipnagogici, e in effetti poi soprattutto con una sorta di suono a Borzo Canada, però veramente portato a dei livelli, potremmo dire, di infamia sonora in termini di qualità, appunto, di questa, ma è proprio quel sperimentare appunto su questo suono che si va veramente a disfare e che dà appunto questa poi immagine sonora anche piuttosto forte, ipnagogica, che si creerà tutto un discorso che riprendiamo nella seconda ora. Per il momento appunto vi lascio con qualche secondo ancora di Borzo Canada, tanto per ricordare insomma i padrini di un suono, perlomeno di un'attitudine. Alla prossima ora, ciao.